Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. E io sono felice perché sono qua con la mia puffettina. Buongiorno. Quando c'è buongiorno, buona domenica. Quando c'è una giornata storta. Cioè, notate bene, felice perché qua con la sua puffettina, mi raccomando, non sono io. Perché non si capisce. Non sono io, non sono la puffettina di Rosita Celentano. Chi può dirlo? La puffettina. Appunto. Nell'intimità a volte ti dico puffettina mia. Mentre abbiamo qui Euforia, che è la cagnolina di Rosita. Che è la mia puffettina. Cioè, volevo riabilitare un attimo la mia immagine. Oh, amore, quindi. Il mio bel puffo azzurro. Cielo grande, cielo blu. Comunque, andiamo avanti. Ma questa era un vecchissimo indovinello, madonna. Ma parliamo di cose serie. Ma parliamo di cose serie. No, dicevo che quando poi c'è le giornate storte, come un po' di giorni fa, che ero arrabbiatissima. Come domenica scorsa. Probabilmente con l'agenzia delle entrate o con Equitalia. Ah, ecco. Ecco, no, appunto, perché domenica scorsa ti ricordo la puntata dei Livrieri, andatevela a ascoltare. No, lascia perdere. Dai, ma sentirete una Rosita Celentano particolarmente incazzata con il mondo delle Livrieri, insomma, si è arrabbiata. Ma insomma, perché voleva mi devi anche questa la morte domenica trucida di alcune persone. Ok. Se no. La mia puffettina, vedi? Due mele, bene, poco sono più. Noi puffi siamo così. Vabbè, vogliamo andare avanti blu, con delle cose. Puffiamo su, per giù. Amore, tu puffi molto di più, eh? Puffo molto di più. Vabbè, comunque, dicevo che poi ero arrabbiata. Poi mi è caduto l'occhio sull'espressione dei nostri cani che mi guardavano così. Ma si è dissolto sciolta, tutto in un secondo. Sciolta, come si fa? Qual è il potere dell'autenticità e dell'innocenza? Ma come si fa? Io mi metto a quattro zampe, sì, a camminare come loro, a guardarli alla loro altezza. Ah no, a proposito di questa roba qua, sì? Rosita Celentano, siccome ho sentito sì, qualcuno che si lamentava del suo mettersi, che striscio, ha detto mettersi, tu non è che strisci, no, però strisce. Allora, volevo informare le nostre persone che noi siamo dotati di neuroni motori, cioè, ovvero tu, per cambiare il mindset, la tua prospettiva mentale, il tuo stato mentale, puoi assumere posture differenti. Infatti non hai mai visto piangere nessuno che si posiziona con il petto in fuori come il duce, no? Esatto. Quindi la nostra postura, la nostra posizione condiziona il nostro stato mentale, ed è per questo che può essere una mossa intelligente. Sai, quando parliamo di ricalco, no? Certo. Le persone che vediamo in sintonia si assomigliano nella postura, nei gesti, nella ritmica, eccetera, eccetera, sono sincroni e fanno cose simili perché sono in sintonia, perché la postura influenza il nostro stato. Quindi quando uno si mette a quattro zampe perché vuole capire dove il cane ha fatto pipì e poi la trova, ha un senso. E ha un senso soprattutto perché tempo fa parlavo con uno psicologo che si occupa proprio di psicomotricità, eccetera, eccetera. Lui diceva, per far capire come pensa un cane, io le persone le faccio abbassare, perché in questo modo riescono ad assumere la loro prospettiva. Quindi vorrei dire a tutti coloro che insomma, diversamente intelligenti, insomma, che questo mettersi a quattro zampe ha un senso. Ecco perché parlavamo anche di esatto, mezzi ignoranti. Ma perché noi facciamo informazione, non facciamo bla bla bla, chiacchiere da bar. Ma andiamo esatto, avanti. Ma neanche con da bar. Abbiamo un po' comunque di notizie. Comunque, diciamo questo, fai un po' di notizie. Allora, no, parti tu con la prima notizia. No, aspetta, no, scusami, partiamo col nostro GR a quattro zampe. Notizie quattro zampe. Che poi è un GR chiacchierato tra me e sì, te, sì, diciamo sì, così. Beh, sentiamo, sì, sentiamo che cosa, che notizie mi porti. No, parti tu, ho detto. Parto io. Madonna, allora, io non dirti, è connesso stamattina. Ma è connesso, ma come ma si permette? Se quelli dei TG, se Carmen, no, la sorella, come si chiama? Carmen la sorella. Vabbè, senti, mi fai dire la notizia, che sennò siamo qua per far chiacchiere. Allora, Torino, la carica dei 100.000 cani, uno ogni 10 abitanti. Prendiamo, cioè, Torino abitanti. Gli abitanti di Torino, volevo dirti che gli abitanti di Torino sono tanti, milioni di milioni. Insomma, a Torino ci sono quasi 100.000 cani, ovvero un cane ogni 10 abitanti. E il trend continua a crescere. Nell'ultimo anno si sono registrate 4.000 iscrizioni in più all'anagrafe canina. Il merito però è che Torino è diventata una città sdoganata ai cani. Cioè è possibile farli entrare nei cinema, è possibile farli fantastico entrare. Più avanti sì, di Milano? È più avanti di Milano da questo punto di vista. No, ragazzi, quindi milanesi, comune di Milano, parliamoci, telefoniamoci e facciamo qualcosa. No, il nuovo regolamento comunale ha aperto le porte ai cani, leggo la notizia della Repubblica, praticamente ovunque, dal cinema al ristorante, dalle case di cura ai supermercati e persino al cimitero. quindi oggi c'è tutto questo. Bene, fantastico. Invece io leggo da lifegate.it: inaugurato in Sardegna il primo ambulatorio per cani e gatti randagi. In realtà è stato inaugurato all'inizio dell'anno. Allora, a Carbonia sarà aperto 24 ore al giorno e sarà gestito dai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Pensa, questa cosa è una cosa fantastica, perché il problema sta nel fatto anche che la gente magari non prende un cane per strada perché ha paura di dover spendere dei soldi propri. In realtà la ASL sul territorio è sempre presente, ma qualora la ASL non si prendesse cura per qualunque motivo, senza nessuna spesa né responsabilità, cioè, appunto, è stato inaugurato il 18 di gennaio questo primo pronto soccorso, questo primo 24 pronto soccorso ore, sì, sì, aperto 24 ore su 24, perché purtroppo in Sardegna vagano in ricerca di cibo riparo 600.000 cani randagi, oltre 2 milioni e mezzo di gatti. Questo è un pronto soccorso 24 ore dedicato ai cani randagi. randagi o ai gatti randagi. Benissimo. Il pronto soccorso per cani e gatti bisognosi è stato inaugurato, appunto, ufficialmente quest'anno, il 18 gennaio, e sta in via Stazione e si occuperà prevalentemente di prestare le prime cure a qualunque animale randagio vittima di incidenti, di cattive condizioni Favolosa. Di salute. Senta, Carmen, ma sì. Cosa dico, Carmen? Vedi, Carmen? Scusa, no, una cosa importante: questo pronto soccorso ha anche un'ambulanza. Ah, addirittura? Sì, c'è anche l'ambulanza. Ma di che è stata l'idea? Di che è stata l'idea è della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Carbonia. Bravi, bravi Carbonia, bravi. E questa è una terra di randagismo endemico e c'è necessità di sensibilizzare, appunto, i cittadini a non tirare dritto se vedono un animale ferito o in evidente stato di malessere, perché assolutamente, assolutamente tutto gratuito. Ma benissimo. Allora, vi ricordo... Grazie. Ovazione a Rosetta Celentano per questa notizia fantastica. Allora, vi ricordo di scrivere. Oggi c'è la cretinera comunque noi. Allora, vi ricordo di scriverci, così vi telefoniamo, leggiamo le vostre mail a chiedimi se sono felice, @radio24.it. E adesso ci ascoltiamo un pochettino di traffico, beh. Beh, andiamo ad ascoltare, dai. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ladies and gentlemen, è qui con noi Red Ronnie. Ciao Red. Ciao ragazzi, ciao. Ti abbiamo messo la sigla dei VIP, Red. Chiamato in causa in quanto grande amante degli animali. E non solo, tal punto che... No, ma poi lui è avanti... A parte, scusami Red, prima di inoltrarci negli argomenti quelli seri, io stavo dicendo adesso ad Angelo, mentre aspettavo di sentirti, che io praticamente la radio l'ho iniziata con te a Radio DJ tantissimi anni fa. Cioè... È vero, lei arrivò a Radio DJ ed entrò tra le parate DJ. Io facevo un programma Bipop a Lulla dove era bellissimo, sì. Dove arrivava Rosetta Celentano, ma arrivavano contemporaneamente Fiorello, Lucio Dalla, che bellissimo, so, era dove veniva Mick Hucknall a fare il DJ con me dei Simply Red, cioè era un qualcosa, gran di, bei tempi di, e c'era questa bambina piccolina, ma già con gli occhietti furbetti, bambina, ti ringrazio, c'avevo già bambina, parlava di te adesso, sì, che scemo, bambina che ti ringrazio, c'avevo 24 anni e avevi mi ricordo gli occhi furbettini, e ti ricordi che cosa? E mi ricordo una puntata dove c'erano tutte le fan di Jovanotti, perché all'epoca, ovviamente, per stare a Radio DJ era perché stavo con Lorenzo, all'epoca c'era, ecco, io per delicatezza non l'hai detto. No, vabbè, però non è che è un segreto di stato. Ah, ma nei miei confronti, no, ma figurati, no, ma è stato carino, però Red, allora voglio dire, no, però mi ricordo che una puntata erano tutte incazzate perché si era fidanzato Jovanotti, doveva essere solo delle fan, e poi dicevano che io me la tiravo perché mi chiamo Celentano, e lui, e Red, mi disse: vieni in diretta e rispondi in diretta. E ti ricordi che appena mi sentivano dire ci avete ragione, dico ci avete ragione, anch'io posso essere arrabbiata, dicevano no, però forse sei simpatica, piano piano riuscivo a convincerle. Come stai intanto? Andiamo, next question. Next question. Next question. Allora, io mi ricordo di te che tu, per esempio, parlavi di alimentazione, di curarsi la salute con l'alimentazione. Nel lontano 1903, per dire? No, era il 1990, ho cominciato a... Essendo diventato vegetariano, avendo cominciato a guarirmi con oli essenziali, quindi non più con prodotti farmaceutici, è cambiato tutto il mio atteggiamento nei confronti di tutto. Quindi da una persona che cresce, la mia adolescenza è stata in campagna, in un luogo dove mio padre, prima bracciante agricolo, era arrivato a dirigere un'azienda dove c'erano addirittura in certi momenti 800 tori che poi venivano mandati al macello. Quindi da uno che vive in mezzo a questa realtà sono diventato vegetariano. Quando diventi vegetariano cambia tutto il tuo rapporto con la vita. È come, io faccio questo esempio, io porto gli occhiali, come se prima io avessi avuto del grasso spalmato sulle lenti e credessi che vedere era quello. Certo. In realtà nel momento in cui qualcuno dice guarda che si può cambiare, mi prende gli occhiali e me li lava e me li rimette, e dico cavolo, ma è tutto un altro mondo. Ma è questo vederci meglio che ti fa diventare vegetariano, o è diventare vegetariano che ti fa vedere meglio? No, è diventare vegetariano che ti fa vedere meglio. In che modo? In che modo? Perché ti disintossichi, cioè noi con le proteine animali, che ne dicono i medici, ci intossichiamo, non è un mistero, ultimamente anche organi ufficiali hanno detto che sì, la carne, sì, certo, sì. Sì, sì, certo. Quindi, ma allora lo diceva Veronesi, che è il più grande oncologo italiano. Quindi a me è capitato per caso perché io mi ero fatto male a una spalla e non riuscivo a guarire con infiltrazione del cortisone, con tutto, e poi lavorando con Morandi mi dice ma io vado in un posto con gli oli essenziali, mi ricordo. E quindi andammo lì, venne anche tuo padre. Sì, mi ricordo, ma guarda che mi ricordo perfettamente, perché tu e Morandi all'epoca sembravate due mosche bianche, vi guardavano come due stranissimi. Sì, perché avevamo scoperto, i dati di fatto però sono ancora oggi evidenti, perché Morandi è rimasto l'eterno ragazzo, sì, sempre un ragazzino, e io comunque ho un'energia tu che pure faccio cose che tutti mi dicono come fai a fare tutta questa energia. È vero, è vero. Quindi alla fine scoprimo questo luogo, e quindi io dissi, quando mi dissero tu devi eliminare carne, latte e latticini, io dissi sì, ma eliminare per quanto tempo? Dissi no, solo 3 mesi. Ah, ecco, allora si può fare. In realtà dopo 3 mesi non sono più riuscito a mangiare carne, perché sentivo proprio la puzza. Sentivo la puzza di faceva puzza la carne. Sì. E non riuscivo più a... E ho bevuto latte, io bevo dei cappuccini, ho bevuto il mio cappuccino, c'era il cappuccino day dopo 3 mesi. E in realtà ho sentito una gita incredibile. E allora mi avete visto gli effetti che ti fa il latte, da allora ho smesso totalmente. Senti, hai visto? Ho visto che ultimamente ti chiamano spesso anche in trasmissioni, alla gabbia, a parlare, appunto perché tu, voglio dire, sostieni comunque cause simili alle nostre. E oggi tu che hai iniziato, che hai avuto la fortuna di capire o di provare questo tanti anni fa, però non trovi che grazie a Dio adesso c'è una dilagante sensibilizzazione in questo senso? Sì, non avrei mai immaginato di subire un assalto così violento da parte di un pesce che sta morendo. Il pesce quando muore con i colpi di coda dà dei colpi di coda incredibili. Perché per te è un pesce che sta morendo, no? Questa... Sì. Cioè il mangiare carne, il nutrirsi di essere animali è un qualcosa che è destinato a cambiare per vari motivi che ho raccontato tante volte, se vuoi te li sintetizzo molto, sì, semplicemente. Dove mangia un carnivoro mangerebbero 10 vegetariani, quindi si risolverebbe il problema della fame nel mondo. Sì, certo. L'inquinamento delle deiezioni, quindi la cacca degli animali. Certo. Sì, sì, l'ho detto anch'io. Al buco dell'ozono, ai gas serra. No, quello è un'altra cosa, quello è il gas serra che è provocato, cioè hanno studiato e se uno mangia una bistecca è come se facesse 20 km di SUV in autostrada. Quindi a noi ci dicono che dobbiamo andare le domeniche senza auto, o sì, impediscono le stelle dell'auto, cioè non andava a stare per eliminare la carne e non ci serve più queste. E in più stanno distruggendo la foresta amazzonica, sì, che è il polmone del mondo, per creare dei pascoli. Quindi come vedi non ti fa un discorso etico, quello viene dopo. Io ti parlo di un discorso reale, urgente, capito? Ecco, chiaramente questo, mentre una volta mi vedevano, come dici tu, come una mosca bianca, adesso mi vedono, diciamo, un'industria che sta perdendo affiliati, perché stanno crescendo in maniera esponenziale le persone che, ecco, sì, la cosa che prendono che riguarda, coscienza. Esatto, la cosa invece che riguarda l'animalismo, che io ho sempre denunciato fin dagli inizi, non facendomi amici neanche tra gli animalisti, è questa, che io capisco che tu faccia la tua protesta perché nel Palio di Siena un cavallo si è rotto una gamba e sarà abbattuto. Io capisco che tu faccia una tua protesta perché nei circhi sfruttano gli animali. Io capisco che tu faccia una tua protesta perché i beagle fanno la vivisezione. Io capisco che tu faccia una tua protesta contro chi usa le pellicce, però quando vai a casa non puoi mangiare carne, perché le polli, le mucche, i conigli, le robe che tu mangi non hanno gli stessi diritti degli ermellini, dei cavalli, certo, eccetera. Certo. Quindi ecco, io ho sempre chiesto coerenza, cioè se una persona si batte a favore degli animali, se una persona ama in maniera incredibile il proprio cagnolino, il proprio gattino, eccetera, dovrebbe avere anche la coerenza di non mangiare carne. Ma, ricordare che in Cina mangiano i cani. Sì, infatti. Guarda, noi tutte queste cose che stai dicendo le trattiamo ogni giorno, e la cosa che a me ha colpito e che adesso porto avanti in assoluto, che ho sentito in un'intervista di Paola Maugeri, è: alla fine della fiera oggi tu devi decidere se vuoi stare dalla parte della soluzione o dalla parte del problema, perché non si tratta più di un'opinione personale o non si tratta più di un gusto personale. Cioè, a me piace la carne, quindi chi se ne frega la mangio. Si tratta proprio di cambiare o di salvare un pianeta che secondo me siamo già in ritardo, ma che ci ha provato ad avvisare in tutti i modi che bisogna cambiare proprio Rosita, guarda, io nel 1994 credo mandai in onda un documentario che era La Terra Divorata, con il commento originale di Paul McCartney. In quello faceva già capire una roba che ho visto anche di recente su un documentario sul mare, cioè che la Terra vive da milioni di anni, l'uomo è come se fosse arrivato in una giornata agli ultimi tre minuti. Certo. E negli ultimi tre minuti di una giornata l'uomo ha creato una distruzione totale di questo pianeta. Sì, sì, è vero. Allora noi possiamo anche dire che viviamo bene, eccetera, eccetera. Ci parlano di posti di lavoro. Io dico sempre che è importante avere sì i posti di lavoro, ma se i posti di lavoro sono all'ILVA e che ciò che produce l'ILVA genera il tumore nella gente, bisogna un attimo pensarci. Certo. Che la priorità non è il posto del lavoro, ma la priorità è la salute delle persone. Certo. Ecco, e questo è un discorso generale che riguarda tutto il nostro pianeta. Cioè, noi è inutile che ci dicano no, non è vero, di qua e di là, ci nascondono i dati, cambiano i dati. Sai cosa fanno? Se ad esempio l'inquinamento tollerabile è a 15 e una città è a 18 e non puoi farci niente per scendere, aumentano l'inquinamento tollerabile a 19. Sì, sì, certo. Alterano i numeri per giustificare uno stato incredibile. Cioè, noi tutti dicono ma oggi noi stiamo molto meglio di una volta. Sto passando un elicottero sopra di me, una volta mi hanno già identificato, t'hanno beccato. Se una volta cioè dicono ma una volta si viveva poco, eccetera, sì, ho capito, noi abbiamo allungato la qualità. Non è nemmeno vero questo, guarda, perché a giorni spero di fare una telefonica col professor Berrino, che sicuramente tu conoscerai. Sì, certo. E lui mi stava spiegando che è dato recente che si è già enormemente accorciata la vita. Non è solo quello, è una cosa diversa. Allora, non hai l'impressione che le giornate oggi durino molto poco? Sì, non hai l'impressione che non c'è tempo per far niente? Sì, sì. Il tempo si sia incredibilmente accelerato? Sì. Allora, è una sensazione, ma è una realtà. Una giornata di 30 anni fa per me era molto più lunga di quella di oggi. Sì, certo. Vuol dire che significa il magnetismo terrestre ha accelerato, cioè il tempo è tutto relativo, basta che vai a vedere il film Interstellar, scopri che per quel che va nella storia passano due giorni, sulla Terra sono passati 40 anni quando torna, e la figlia è vecchia, di sua figlia che è già vecchia, quindi assiste alla morte della figlia, il papà ancora giovane, quindi questi non è solo fantascienza, sono le relatività del tempo. Allora cosa succede? Succede che il tempo si è notevolmente accelerato. Oggi tutto va molto più in fretta. I nostri 70 anni sono molto più lunghi dei 40 anni dei nostri nonni. Quindi è proprio un fatto, ma non è una sensazione, è un fatto, mi dicono esperti, magnetico questo qui. Quindi io non lo so, non voglio entrare in questo, però la sensazione è quella. Oggi arrivi e dici, ma è già passato un anno? Cioè compi un anno e dici, ma nonna, come, ma è già passato un anno? Cazzarola, si invecchia alla velocità della luce. Noi che abbiamo scoperto l'elisir di lunga vita con l'alimentazione, invecchieremo giovani, cioè moriremo giovani, invecchieremo casino. c'è un altro detto che va sfatato, cioè qual è? Il detto che dice meglio vivere bene e morire malati che vivere da malati e morire bene. Allora, e no, morire in salute. Ed è una cavolata, perché? Perché l'alimentazione vegetariana non è che non abbia sapore. Anzi, appunto. E mangiare, io quando porto, c'è un mio amico, frato, un mio amico che dovresti intervistare, Gianni Fantoni, perché? Perché oltre ad essere comico, lui ha fatto il primo libro scritto da un cane. Ah, lo chiamiamo? Il primo libro scritto da un cane, e poi adesso lui ha un cane, Severino, che è posto in tutte le pose, stravede per questo cane, eccetera. Beh, Gianni Fantoni, che non è del tutto vegetariano, perché a volte mangia carne, a volte chiede proprio lui e Margherita, la sua moglie, di venire a fare una cena vegetariana con noi, con me e mia moglie. Perché? Perché andiamo in questi ristoranti, che ne so, c'è uno all'interno dell'Hotel Carlton o uno lì, dove ci fanno proprio menù vegano, e impazzisce per i gusti, proprio sente il bisogno di mangiare. No, infatti. Senti, allora diciamo che noi vogliamo morire sani, rispettando l'ecosistema e gli animali. Senti Red, sono felicissima di aver fatto una chiacchiera con te, non è detto che non ti richiamiamo. Va bene, ciao. Grazie bambini. Red Ronnie. Un bacione grande, ciao. A presto. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari, di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E vi ricordo sempre la nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it, così vi coinvolgiamo in trasmissione. Adesso... Allora Celentano, mi stia attenta, si ricorda qualche tempo fa che io ho letto un pezzo di un veterinario giornalista che era stato nei laboratori della vivisezione? E lei si ricorda che quel pezzo gliel'avevo fatto leggere io? Ma non mi ricordo per niente questa cosa, vabbè. Comunque, sì, so di chi stai parlando. Al di là della fonte, parlavamo di Oscar Grazioli e ci siamo detti: sarebbe interessante però fare intervistare con lui. Oscar Grazioli, e quindi Oscar Grazioli è oggi con noi. Ciao Oscar. Ciao a tutti e ciao ai radioascoltatori. Ciao, allora, Oscar, io sono felicissima di poter fare una chiacchiera con te per far capire meglio come funziona. Allora, perché abbiamo deciso di intervistare Oscar Grazioli? Lui è un veterinario giornalista ed è fondatore di un'associazione che si chiama OSA, cioè Oltre la Sperimentazione Animale. È una persona informata su tutte quelle domande che sorgono alla gente quando sentono parlare di antivivisezione, cioè ma perché forse questi animali, forse è un sacrificio necessario, no? Un male necessario questi animali qua, perché sarebbero tutti pazzi questi scienziati? Sì, allora esatto. Oscar Grazioli, adesso ce lo spiegherà meglio, ha fondato insieme ad altri studiosi, ricercatori, altri scienziati, questa associazione che ha proprio la particolarità di riunire attorno allo stesso tavolo delle persone competenti, informate in tema di scienza, giusto? Esattamente così. Uno potrebbe chiedersi circa l'utilità, no, di questa nuova associazione, visto che il panorama è già molto affollato, no, certo, dell'associazionismo. Però abbiamo pensato che questa associazione si debba caratterizzare per il fatto di avere come soci ordinari, fondatori, eccetera, persone che hanno un titolo scientifico riconosciuto, quindi dal medico al biologo, al chimico, al fisico, al matematico, ce ne sono, abbiamo una lista enorme di... Questo, intendiamoci, non crea nessun problema, noi abbiamo anche altri tipi di soci, magari ne parleremo più avanti. perché altrimenti potremmo sembrare l'associazione dei più bravi, no? Sì. Assolutamente sì, così. L'elite delle associazioni antidiscriminazione. Esatto. Invece è semplicemente il fatto che il discorso etico, diciamo morale, delle sofferenze, no, inflitte alle cavie, è già fra virgolette coperto, no, da tantissime associazioni che lo fanno egregiamente. Quello che manca nel panorama italiano è un'associazione che vada a discutere con i cosiddetti protest sperimentatori o l'altra parte, diciamo così, sul piano strettamente scientifico, cioè da medici a medici. Grandioso, perché noi appunto la parte etica, come tra l'altro mi è sembrato di aver letto, no, dai tuoi articoli, da quello che abbiamo letto l'altra volta, ho letto un pezzettino appunto di quando eri stato nel laboratorio di organizzazione, ti sei sempre occupato di etica e di morale, mentre adesso possiamo anche a pari livello con chi sostiene che la vivisezione è necessaria fare interloquire invece delle persone che... Io ti voglio fare subito una domanda, perché quando sono stata poco tempo fa, qualche settimana fa, ospite a Fuori Onda, se non ricordo male, sulla 7, dove c'era David Parenzo, mi hanno parlava appunto della vivisezione legata alla ricerca farmaceutica, no? Quindi per trovare medicine che curassero l'uomo. Spesso passano i video, le interviste di questa ragazza poverina che ha un sacco di problemi e che lei dice: io anch'io amo gli animali, ma io sono ancora viva grazie al fatto che si possono sperimentare le medicine per noi uomini sugli animali. Vogliamo dire come stanno veramente le cose? Allora, le cose stanno in modo assolutamente contrario, nel senso che è chiaro che all'uomo prima o poi ci si deve arrivare, perché uno può sperimentare su milioni di ratti, topi, cani, elefanti, bovini, eccetera, eccetera, o cavalli, quel che vuole, poi a un certo punto sull'uomo è costretto ad arrivarci, magari prima con una campionatura, con dosaggi minimi per poi aumentarli, eccetera, eccetera. E che cosa abbiamo visto nella storia della medicina e della farmacologia? Che sostanzialmente quando si arriva all'uomo è praticamente si deve ricominciare un costante da capo. Fallimento, si deve ricominciare completamente da capo. E calcolate che ci sono centinaia di farmaci, di molecole, che ogni anno vengono o ritirate dal commercio, o immesse in commercio e ritirate entro poco tempo, oppure non arrivano neanche al commercio, perché vanno benissimo nei ratti e nei topi. Poi, una volta fatto il primo campionamento sull'uomo, magari ne muoiono due persone o altre hanno malattie gravissime, e quindi la molecola viene gettata, e quindi a questo punto ci si chiede: ma non è forse più utile cominciare la sperimentazione sull'uomo stesso? Direttamente. E senti, ma la domanda che potrebbe venire spontanea a chi ci ascolta è: ma scusami, non è che però queste morti di animali sono necessarie per far morire meno esseri umani? Cioè, se questi stessi farmaci che sono stati testati sugli esseri umani hanno prodotto problemi tali per cui i farmaci vengono ritirati, magari avremmo avuto ancora più problemi se non avessimo sperimentato sugli animali. No, esattamente il contrario. Vi faccio un esempio banalissimo. Uno dei per far capire proprio ai radioascoltatori, uno dei farmaci più utilizzati per i bambini nelle forme respiratorie è la amoxicillina. Sì. Credo di potermi concedere di dire anche un brand name, no? una marca, credo che non facciamo, no, una gran pubblicità. Sì. O se dico Dimox piuttosto che il generico, la amoxicillina, acido clavulanico, così tutti capiscono e tutti sanno che l'hanno dato, eccetera, come la tachipirina o altre. Ecco, voi date 10 gocce di questo antibiotico ad un coniglio per bocca e dopo 2 ore è morto. Ma pensiamo a questo: all'interno delle stesse razze di cani, prendiamo il cane. Sì. Visto che ci occupiamo in questa trasmissione soprattutto di cani, no? All'interno della stessa specie, quindi del cane, ci sono delle razze che sono estremamente sensibili, ad esempio il colli. Sì. Per il colli l'ivermettina, che è un farmaco antiparassitario estremamente usato, è praticamente letale. Il boxer ha enormi problemi a metabolizzare un farmaco che è preanestetico, che si chiama cetipromazina, estremamente usato dall'80% del 70%. Quindi, in sostanza, stiamo dicendo che se già all'interno della stessa specie tu non hai una continuità. Sì, posso dire in modo forse un po' più spicciolo: è come quando noi umani abbiamo il mal di testa e a me lo fa passare un analgesico e a un altro gli no. E quindi usano analgesici diversi, e questo è il concetto, giusto? Esattamente, il concetto è questo: come non possiamo far passare, non so, dal cane al gatto con estrema semplicità. Abbiamo ad esempio un prodotto antiparassitario abbastanza famoso a base di permetrina, estremamente utilizzato sul cane. Se ne diamo una goccia sul gatto, è un gatto morto. Scusami, ma fammi capire, esiste l'alternativa alla sperimentazione animale per quanto riguarda la salute dell'uomo? Ma certamente che esiste, e sono i cosiddetti metodi sostitutivi o alternativi, ed è proprio per questo che OSA si chiama così, che l'acronimo non è contro la sperimentazione animale, ma è oltre la sperimentazione animale. Quindi oltre, dire, perché vogliamo andare oltre. Esatto, anche perché, allora, se io, siccome tempo fa abbiamo parlato anche con Massimo Tettamanti, che ci aveva già detto alcune cose e io ero rimasta abbastanza flesciata. Allora, io voglio farti una domanda un po' azzardata. Possiamo dire che forse non c'è interesse ad avere una sperimentazione sulle medicine che sia sicura, perché non ci si riempie così le tasche? Assolutamente sì, c'è un enorme business dietro la sperimentazione animale, è un business fatto da punteggi universitari, fatto ovviamente di allevamenti di cavie. Costosissimi, fra l'altro, molto costosissimi. Però nell'incertezza, allora uno dice, sai, passando di specie a un'altra non si può avere la certezza, intanto buttiamo la cosa in commercio, che magari al topo non ha fatto bene ma all'umano fa bene, oppure, cioè, l'importante è buttare sul mercato, e quello è quello che fa riempire le tasche, giusto? Indipendentemente che uno stia pensando di curarci la salute. Assolutamente sì. Quindi da un lato, Oscar, questo tu ci dici che è più rischioso sperimentare sull'animale e poi sull'uomo, bisognerebbe farlo direttamente sull'uomo, perché quando i medicinali sono stati sperimentati male, io ho un esempio che tu ci avevi fatto tempo fa sulla fusafungina, credo si chiami così. Sì, l'ha detto prima. Sì, ecco. Sì. Beh, la fusafungina è proprio un esempio di questi giorni. Ok, ok. 50 anni che è in commercio, adesso è stata ritirata in tutta Europa per gravi problemi di allergia, anafilassi, anche letali. Senti, ma la sperimentazione alternativa è fatta tramite le cellule staminali anche? Anche, è una delle vie assolutamente del futuro, cellule staminali ed embrionali, sì? senza che l'embrione comunque può sopravvivere. Quindi si fa un banale prelievo di queste cellule, si ricondizionano riportandole ad uno stadio che possa permettere loro di diventare organi, fegato, cuore, eccetera, eccetera. Ma oggi ci sono le stampanti in 3D che stampano organi. Esatto. Anche per la questione didattica, no? Soltanto spiegare meglio questo concetto, no? Perché tante volte quando discuto con persone. Aspetta, allora facciamo una pausa e poi proseguiamo con Oscar la chiacchierata. Siamo già. Oscar, ci aspetti un secondo, facciamo una breve pausa e poi ricontinuiamo. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che avevamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qua, stavamo parlando con Oscar Grazioli appunto di sperimentazione animale, di vivisezione, se è ancora necessario o no ai fini di salvare la vita di qualche umano scoprendo delle medicine portentose. Abbiamo capito che non è assolutamente così, che purtroppo ci sono interessi che sono completamente diversi dal fare sperimentazione animale per invece curare la salute di un malato, giusto? Sì, certo, poi c'è una sorta anche di immobilismo, nel senso che i laboratori sono 50 anni che faccio così, devo cambiare tutto, rivoluzionare, formare gente, eccetera. Ah beh, eccetera. Certo. Quando così, devo... chi se ne frega se nel frattempo torturo degli esseri viventi. E chi se ne frega se tanto questo non porta a curare un malato di Alzheimer, di SLA, perché queste sono le malattie di oggi, giusto? Provate a pensare Alzheimer, SLA, Parkinson, sclerosi e placche, eccetera, eccetera. Cosa ci hanno portato 50 anni, 60 anni di sperimentazione su ratti e topi? Qual è il farmaco che oggi cura l'Alzheimer? Credo nessuno. Nessuno? No, te lo dico io, nessuno. Ah, ecco appunto. Zero. No, quindi abbiamo sbagliato tutto. Come dice il professor Berrino, non c'è interesse in questi grossi colossi nel far sì che l'uomo viva bene, a lungo e non malato. Mentre il PIL, lui dice, si alza nel momento in cui crea dei malati fin dai tempi delle scuole, degli asili nido. Beh, possiamo dire tranquillamente che c'è maggior interesse a tenere in vita una persona fino a 90-100 anni, facendogli prendere alla fine 14 pastiglie al giorno. Esatto, madonna, sì. Ragazzi, cioè allucinante. Giusto? Sì, assolutamente. Ci siamo allungati la vita, ma a quale prezzo? Quindi la famosa frase è un male necessario, non è un male necessario quello della tortura di questi animali per salvare la nostra vita. Basta con la storia del topo e il bambino, è meglio il topo e meglio il bambino. Esatto. È meglio il topo e il bambino, ma soprattutto meglio che curiamo la nostra salute nel modo corretto e non con un errore metodologico tragico come questo, che ci conduce ad avere malattie croniche neurodegenerative che sono impossibili da prevenire e da curare in qualsiasi modo. Questa è un'affermazione secondo me molto importante, perché è la prima cosa sulla quale tutti quanti buttano l'amo, no? Allora sì. Passa, invece di analizzare le cose, vabbè, ma allora cosa fai? Metti sullo stesso piano la vita di un essere umano e la vita di un animale. Allora diciamo che salviamo gli esseri umani se salviamo anche gli animali. Ma certamente, cioè non c'è nessuna contraddizione. E non c'è nessun... Possiamo amare gli uni e gli altri. Non vorrei andare contro il Papa, ma possiamo amare gli uni e gli altri. No, infatti, ne abbiamo parlato anche di quello. No, senti, quindi, ma in realtà la gente, una volta che prende consapevolezza di questa cosa qui, che cosa può fare per far sì che ci sia questo scatto? Allora, intanto potrebbe iscriversi a Dosa, ad esempio. Oh, come si fa a iscrivere a Dosa? Anche come volontario, basta andare sul sito o di Osa e scaricare il modulo, e se uno ha i titoli ovviamente scientifici può accedere come socio membro ordinario, altrimenti come membro volontario, che ha pari dignità rispetto agli altri. Benissimo, senti, qual è l'indirizzo internet di Osa? Oltre la sperimentazione.eu. Oltre la sperimentazione.eu, il sito. Posso dire un'ultima cosa? Sì, puoi dire quello che vuoi. Concedi? Sì, vai. Volevo ringraziare assolutamente la nostra madrina, noi abbiamo una madrina che si chiama Franca Valeri. No, vabbè. E che ci ha regalato una sua enorme foto con scritto "Io sono con voi". No, vabbè, bellissima. Fantastica, grande Franca, sì. Guarda, sarebbe bello fargli veramente anche una chiacchiera. No, è una persona, un'artista fantastica, una persona meravigliosa comunque. Assolutamente, anche e come... noi siamo orgogliosi di averla come madrina. Beh, avete una testimonial veramente che vi fa tanto onore. Senti, Oscar, se c'è qualunque cosa io mi rendo disponibile a portare avanti questa battaglia, soprattutto proprio per il bene che voglio all'uomo, perché oggi ci si deve togliere il paraocchi e non rimanere ai vecchi luoghi comuni, anche per pigrizia, come dicevi prima tu, perché ci sono metodi alternativi, certo. E dobbiamo essere i primi noi. Può aiutare il fatto di cercare di prendere medicinali dove almeno non è stata fatta la sperimentazione animale? Lì si tratta di prendere purtroppo qualsiasi medicinale viene sperimentato sugli animali prima, purtroppo sì, quindi questo non è ancora possibile. Però io credo che in un prossimo futuro, anche a breve, lo sarà. Va bene, vabbè, quando sai cosa possiamo fare per velocizzare, certo, questo passo in avanti, faccelo sapere, noi siamo a disposizione. Poi Rosita, se tu vuoi portare avanti questa battaglia, noi stiamo cercando anche un testimonial, diciamo, per i più giovani che non conoscono Franca Valeri, per cui se vuoi fare un appello, ma magari anche a te stesso se vuoi. Ma volentieri, guarda, sentiamoci che poi faccia. Ti ringrazio dei più giovani, ma non sono proprio più di primo pelo nemmeno io. Beh, vabbè, d'accordo. Però, no, mi raccomando, veramente. Molto amato, sì, molto amato dai giovani. Grazie, grazie. Senti, Oscar, grazie, ne parleremo ancora appena ci sarà occasione. Ci sentiamo poi presto. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie, grazie, ciao Oscar. Grazie, Oscar Grazioli. Beh. Allora, quindi il punto è: io posso essere contro la vivisezione perché questo mi fa essere a favore della salute dell'uomo. E quindi non è inutile che chiamatemi ora in trasmissione a parlarne, ora che ne so un pochino di più. Se penso che ogni giorno muoiono milioni di animali torturati in nome della vivisezione. E già il 50% erano torturati gratuitamente solamente per scrivere articoli sulle riviste scientifiche. Già quello mi fa schifo. Con questo, però, ricordo: chiedimi se sono felice, @24.it per le vostre mail. Adesso abbiamo la nostra ricetta ricettina che ci unisce i nostri animaletti a quattro zampe con Mara Di Noia. Ciao, a domenica prossima. Piatti e ciotole. Oggi vi lascio una ricetta che si può chiamare crocchetta di tempè. Non vi spaventate per i nomi strani. Vi occorrono 200 g di tempè al naturale, 75 g di riso semintegrale, 8-10 foglie di salvia, del pan grattato, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, un cucchiaino di olio di oliva extravergine, sempre quel pizzichino di sale. Dovete sciacquare il riso molto bene, questo consente di eliminare gli amidi. Bollirlo per 20-25 minuti in modo tale che sia ben cotto. Una volta scolato il riso e raffreddato, frullatelo con il tempè che avete ridotto precedentemente in pezzetti. Unite la salvia, il lievito alimentare in scaglie, 3-4 cucchiaini di pan grattato che serviranno semplicemente a rassodare il composto. Poi potete formare delle palline grandi come delle noci con il composto che avete ottenuto e con le mani leggermente oliate potete poi schiacciarle. Queste crocchette sono perfette cotte in padella, ma io vi consiglio anche di provare la cottura in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. Sia per il piatto umano che per la ciotola si possono accompagnare con delle verdure crude. Il tempè è un alimento fantastico, è un alimento di origine orientale, l'Oriente ha una tradizione di alimenti vegetali fermentati che è durata per tantissimi secoli, pensate che il Giappone è stato vegetariano stretto addirittura per 8 secoli per editto imperiale, quindi per legge nessuno poteva mangiare cibi di origine animale nemmeno in casa propria, è per questo che hanno sviluppato degli alimenti che vale proprio la pena conoscere. Il tempè deriva dalla soia, è quindi un legume. In più, essendo fermentato, è arricchito in modo naturale di vitamine del gruppo B e anche di tante altre. Queste famose vitamine del gruppo B sono un altro cruccio delle persone che si avvicinano all'alimentazione vegetale. Ma con un po' di astuzia e un pochino di conoscenza si possono costruire delle diete che non hanno nulla da invidiare alle diete con cibi animali. La dieta vegetale non vi darà una carenza nemmeno di proteine, in quanto il tempè è ricchissimo di queste molecole che sono essenziali per il nostro organismo, ma soprattutto quando l'alimentazione è costruita bene in modo vario ed equilibrato, sicuramente non mancherà nulla né alla nostra famiglia né tantomeno ai nostri animali che potranno gioire con noi di un piatto cucinato anche per loro. Io vi saluto e vi ricordo che questa ricetta potete trovarla anche su www.vegachef.it. Ciao ciao!